quello che avevi e oggi non ti serve più. Cielo che cambia colori, i rossi sono blu. Le canzoni, le opinioni, chi le ascolta più? I silenzi e gli abbracci che non mandi giù. Dirsi tatuaggi, iPhone, dov'è la tua ombra? Forse su Facebook o su YouTube o su Twitter. Dove andavi, ora vendono TV al posto del biliardo, c'è una sala Wii, il sorriso dentro il viso, chi lo vede più? E la voce, sottovoce, non la senti più. Dirsi tatuaggi, iPad, iPhone, dov'è la tua anima? Forse su Facebook o su YouTube, su